perfetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. Io ho avuto pure morti durante la guerra, parenti che sono caduti. Io capisco perfettamente il dolore di loro, capisco che la situazione di loro, che mi dispiace molto, capisco perfettamente la loro rabbia, no? Ma non capisco che vogliono fare a me, no? Io non tengo nessuna colpa, nessuna responsabilità ho avuto nella repressaglia. Sono le ultime ore per definire la legge di stabilità. Si ipotizza l'allentamento del patto per i comuni virtuosi, un piano triennale per le tasse sul lavoro. L'amnistia non può escludere un solo cittadino, dice Quagliariello a Radio 24 su Berlusconi. Ancora scontro nel PD sulle parole di Renzi contro i provvedimenti di clemenza. Tra poco ospite il sindaco di Bari, Emiliano. Immigrazione è pronta alla missione militare per il pattugliamento del Mediterraneo. Navi, aerei, elicotteri e 1500 uomini. I funerali del boia delle Fosse Ardeatine, Eric Pripke, avete sentito la sua voce proprio un attimo fa. Il vicariato di Roma dice tutti i preti rispettino l'ordine di non celebrarli. L'avvocato del criminale nazista, lo sentiremo anche lui, tra poco, dice la Chiesa è vile. Sono quasi 7.800 le società controllate dallo Stato o dagli enti locali, 19.000 i consiglieri di amministrazione, 300.000 i dipendenti, nei dati pubblicati oggi dal Sole 24 Ore. La nazionale si allena a quarto, Balotelli non contro la criminalità ma perché il calcio è bello, il prete anticamorra dice sia sanzionato a vita. Una buona giornata dunque da Simone Spezia e benvenuti ad Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti. Se volete potete commentare il tema che abbiamo deciso di farvi commentare oggi, se volete, è la questione delle società pubbliche. Sono 7.800, in crescita dell'8% di proprietà dello Stato degli enti locali, come avete sentito dai titoli. Potete andare sulla nostra pagina Facebook www.facebook.com/effettogiorno. Ne parleremo più avanti, tra un attimo vi diremo anche chi ha vinto il premio Nobel per l'economia che è appena arrivato. Iniziamo però dalla giornata politica e iniziamo dalle questioni che riguardano i nostri conti, conti pubblici e la situazione economica. Più avanti arriveremo anche a parlare di amnistia. Perché? Perché sono le ore decisive per la manovra, per la legge di stabilità. Ci colleghiamo per le ultime con Vincenzo Miglietta. Vincenzo, buongiorno. Sì, buongiorno. Vigilia dell'arrivo sul tavolo del governo della legge di stabilità. Il provvedimento è stato illustrato questa mattina al Presidente della Repubblica Napolitano, dal Premier Letta e dal Ministro dell'Economia Sacco Manni. Al centro della manovra vi sarà la riduzione del cuneo fiscale con maggiori detrazioni per i lavoratori dipendenti ed un allentamento del patto di stabilità per gli enti locali, ma ci sarà anche la rimodulazione dell'impianto dell'IVA in forse, l'arrivo della quarta aliquota. Per certo invece vi sarà il varo e la definizione della nuova service tax. Quest'ultima, sappiamo, permetterà di superare l'IMU incorporando anche la TARES TARSU. Girano, Simone, tante indiscrezioni su come sarà strutturata la service tax. Si parla di una possibile aliquota massima del 3 per mille, quanto ad una presunta aliquota IVA del 7% sui libri. Questa viene definita da Palazzo Chigi una bufala. Al di là dei numeri, che in queste ore non trovano dunque riscontro, va sottolineata la filosofia del governo alla base della legge di stabilità triennale che sarà portata in Europa per fare tagli di tasse a imprese dipendenti. Spiega il ministro Franceschini, servono tagli di spesa corrispondenti che non saranno indolori, dato che abbiamo scelto di fare la prima manovra senza alcun prelievo fiscale su cittadini ed imprese. E da Roma è tutto. Grazie Vincenzo Miglietta, torneremo alle altre vicende politiche, anzi adesso ci arriveremo, ma prima fatevi dare la notizia che attendevamo: si è arrivato il premio Nobel per l'economia e va a Eugene Fama, Lars Peter Hansen e Robert Schiller per la loro analisi empirica dei prezzi degli asset, ossia delle azioni e delle obbligazioni. Torneremo su questo tra poco, intervisteremo un economista per capire anche che significato ha tutto questo. Veniamo invece, sempre per restare alla politica, alle questioni che riguardano l'immigrazione, perché oggi ci sarà un vertice nel quale verrà decisa una missione con caratteristiche sia militari che umanitarie nel Mediterraneo. Alessandra Schepisi ci racconta in cosa consiste. Un piano per fermare le stragi del mare attraverso l'invio di aerei e navi, ma anche attraverso un maggior coinvolgimento dell'Europa. A questo lavorano i ministri degli interni, degli esteri e della difesa che nel tardo pomeriggio si incontreranno a Palazzo Chigi. L'hanno battezzata missione Mare Sicuro e potrebbe essere operativa già domani. La Marina Militare fa sapere di essere pronta con uomini e mezzi ad affrontare l'emergenza che cresce di giorno in giorno. L'obiettivo, spiega il ministro della difesa Mauro, è quello di triplicare la nostra presenza in termini di uomini e mezzi nell'area sud del Mediterraneo per una missione militare umanitaria che contenga la crisi attuale. Non vogliamo disimpegnarci, ma impegnarci di più, così, spiega, potremo chiedere alla UE di fare lo stesso. Un modo dunque per presentarsi con le carte in regola all'appuntamento europeo del 24 e 25 ottobre. A Bruxelles il intende chiedere accordi europei con i paesi di partenza ed origine dei migranti, nuove regole sull'asilo e il potenziamento di Frontex, il pattugliamento marittimo europeo, ma anche rivendicare qualcosa sui finanziamenti. I costi sostenuti dall'Italia, infatti, secondo alcuni ministri, andrebbero contabilizzati fuori dal patto di stabilità europea, visto che la questione riguarda tutti. Alessandra Schepisi, Radio 24, Sole 24 Ore, Roma. E altre questioni europee naturalmente sono quelle economiche. Oggi c'è un'importante riunione dell'Eurogruppo, sentiamo. Si discuterà di banche e del prossimo stress test creditizio questo pomeriggio nella riunione che i ministri delle finanze della zona euro terranno in Lussemburgo. La Banca Centrale Europea dovrebbe da qui a un anno assumere il compito della vigilanza bancaria. Prima di prendere l'impegno vuole effettuare un'analisi precisa dei bilanci bancari. Preoccupata di trovare situazioni poco chiare, l'Istituto Monetario chiede che i governi siano pronti a ricapitalizzare gli istituti di credito se necessario. Il dubbio è se l'operazione debba essere fatta a livello nazionale o a livello europeo. I ministri sono divisi, tanto da rendere sempre complicato il completamento di un'unione bancaria nella zona euro. Beda Romano, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Lussemburgo. Veniamo alla nazionale italiana. Alla vigilia dell'incontro con l'Armenia si allena oggi sul campo napoletano di Quarto, sequestrato alla camorra. Tra gli azzurri impegnati nella lotta per la legalità, Balotelli rifiuta il ruolo di testimonial contro le mafie e twitta: io vengo perché il calcio è bello e tutti devono giocarlo dove vogliono. Sentiamo il prete anticamorra Agnello Manganello. Questi giocatori hanno delle grosse responsabilità di fronte ai giovani, ai ragazzi, perché sono un po' quasi degli idoli, delle persone a cui guardare, anche con l'aspirazione di diventare come loro. Hanno una grande responsabilità, in questo caso anche Balotelli ha delle grandi responsabilità. Dire una cosa di questo genere significa smontare, annullare tutto il lavoro che noi facciamo per veicolare la legalità, il rispetto delle regole, il contrasto alla criminalità organizzata. Insomma, io rimango veramente sconcertato di fronte ad una affermazione di questo tipo e mi chiedo, ma ha diritto ancora ad essere convocato nella nazionale? I responsabili farebbero molto bene a prendere iniziative disciplinari, ma a tempo indeterminato, perché vogliamo che chi gioca con i colori dell'Italia anche in questo abbia le idee chiare. Dobbiamo tutti essere contro la camorra, perché la camorra è una di quelle organizzazioni criminali che ha tolto la possibilità al sud di decollare. E ritorniamo alle questioni politiche, parliamo dunque di amnistia, indulto, di situazione carceraria, perché come sapete è al centro del dibattito. L'intervento più importante di questa mattina è senza dubbio quello di Gaetano Quagliariello, ministro delle riforme del PDL, intervistato da Giovanni Minoli, ma naturalmente sullo sfondo resta anche il no arrivato dal sindaco di Firenze e candidato alla segreteria del Partito Democratico Matteo Renzi, che fa molto discutere all'interno del partito. Dunque sentiamo che cosa ha detto Quagliariello questa mattina e poi sentiamo il punto di Stefano Folli. Io penso che nessuno possa ritenere che una legge possa non essere applicata soltanto ad un cittadino. Rimango convinto che una legge debba essere applicata a tutti i cittadini. Certo. Devo dire che la sera il ministro Cancellieri mi ha chiamato per ringraziarmi, perché dicendo che avevo ben interpretato, e il giorno dopo ha dichiarato: non si può fare una legge né a favore di qualcuno né contro qualcuno. Va bene, la legge quindi deve avere un contenuto generale. Senta, ma quella della Cancellieri non è semplicemente l'applicazione della linea che Napolitano ha espresso nel messaggio alle Camere? Napolitano ha detto che l'amnistia e l'indulto è una parte della più generale riforma della giustizia. Che farete insieme con la Cancellieri? Io credo che quel capitolo, quello della più generale riforma della giustizia, va subito messo all'ordine del giorno del governo. Stiamo lavorando per arrivare ad una conferenza congiunta in cui riforma dello Stato e riforma della giustizia si fanno, sono due aspetti della stessa medaglia. Senta, ma amnistia e indulto si fanno subito oppure no? Beh, si dovrebbero fare entro maggio. Ah, questi sono i tempi europei. Il punto di Stefano Folli. E così Matteo Renzi ha rotto il piccolo grande tabù della politica italiana, il fatto che non sia opportuno attaccare il capo dello Stato, visto un po' da tutti e con ragione come il custode del sistema, cioè di un equilibrio precario ma pur sempre senza alternative. Ed è precisamente per questa ragione che Renzi lo critica, non tanto per la questione dell'amnistia e delle carceri sovraffollate, quella a tutelare di essere il pretesto. Il vero nodo è che Napolitano, agli occhi di Renzi, è il difensore, il tutore delle larghe intese, ossia dell'attuale maggioranza, l'uomo che vuole la stabilità e sta cercando di allungare la vita sia del governo Letta sia ovviamente della legislatura. Invece Renzi, prossimo segretario del PD, ha bisogno di tempi stretti, elezioni quanto prima, anche perché il personaggio è brillante ma gravemente esposto al rischio di logoramento. Ecco allora gli attacchi al Quirinale. Ma il rischio a cui si espone il sindaco di Firenze non è piccolo. Una politica fatta di slogan, battute e interviste esplosive non è quello che ci si aspetta dal leader del più grande partito italiano, le cui responsabilità dovrebbero essere altrettanto rilevanti. Michele Emiliano, sindaco di Bari, buongiorno e benvenuto. Buongiorno. Allora, questo che avete sentito naturalmente era il commento, l'opinione, il punto di Stefano Folli. Io prima di tutto vorrei capire da lei come la pensa sull'amnistia e sull'indulto. Dico, Folli è un estimatore di Renzi, altro che asfalto ha buttato, lo ha trasformato in un piccolo caimano da elezioni, ma non è così, eh. È un ragazzo giovane ovviamente, con tutti i limiti anche della sua età, ma è anche una persona di straordinaria sensibilità, ha capito a volo quello che un vecchio magistrato come me sa da sempre, cioè che le amnistie e gli indulti si fanno con la scusa di liberare le carceri, ma per sistemare un po' di politicanti arrestati, condannati, con vari problemi. E Berlusconi non è neanche l'obiettivo, perché se ho capito bene, come posso dire, di Berlusconi ormai lo stesso PDL poco si interessa. In realtà proprio stamattina Quagliariello ha detto non si può fare un'amnistia o un indulto tenendo fuori un solo cittadino. Quagliariello abbia ragione, perché bisogna dire chiaro agli italiani che non si può fare un'amnistia o un indulto contra personam. Allora, veniamo però alla questione tecnica. Siccome il Presidente della Repubblica dice che, ed è vero, abbiamo delle carceri troppo piccole per un numero non grandissimo di detenuti, perché noi abbiamo uno dei totali più bassi d'Europa di detenuti, quindi questo va chiarito, i mezzi per sfoltire un po' non sono solo l'amnistia e l'indulto, quei due sono due bazooka che servono a molto altro, basterebbero una serie di norme che distinguono i circuiti carcerari e che consentono varie tipologie di espiazione della pena, da valutare caso per caso con gradualità dai giudici, in modo da non avere 20.000 scarcerazioni in un giorno che poi debbono essere gestite dai comuni con... Emiliano, mi scusi, è quello che dice anche in realtà il Presidente della Repubblica nel suo messaggio alle Camere, che è molto più complesso, si è voluto ridurlo ad amnistia e indulto, ma naturalmente non è solamente quello. E però dall'altra parte abbiamo questa scadenza di fine maggio 2014, che è il tempo che ci ha dato la Corte di Strasburgo. Se il Ministro della Giustizia mi dà un pomeriggio, io vado da lei e cerchiamo di metterci d'accordo su come è possibile tirar fuori dalle carceri 20.000 persone senza scarcerarli, ma assegnandoli ciascuno al posto giusto con il lavoro dei magistrati di sorveglianza e soprattutto consentendo ai servizi sociali dei comuni di ricevere queste persone che altrimenti sarebbero delle tigri scatenate in mezzo alla giungla, perché è evidente che non si possono abbandonare 20.000 persone tirandole fuori dal carcere, bisogna gestirle, perché altrimenti lo strazio di questi uomini, di queste donne sarebbe infinito. Insomma, i termini sono stringenti, ma credo che l'Europa voglia sapere da noi che programmi abbiamo, non se vogliamo fare la messa o l'indulto, vuole sapere se siamo in grado di sfoltire le carceri, se siamo in grado di costruire un sistema carcerario più efficiente. Mi ricordo che c'era un signore, era il ministro della giustizia prima della cancelliera, non so se voi se ve lo ricordate, si chiamava Alfano, doveva fare un piano carceri. Cioè, noi abbiamo il premier e il vice premier, l'uno era il vice di Bersani e l'altro era il ministro della giustizia di Berlusconi, e tutti e due proprio successi non ne hanno avuti nei loro rispettivi ruoli, e pur tuttavia adesso ritengono di poter risolvere il problema con un'amnistia. L'amnistia è qualche cosa di inaccettabile, che peraltro gli italiani avevano voluto respingere come mezzo di deflazione carceraria, al punto che avevano aumentato la maggioranza necessaria in Parlamento per adottare, proprio per evitare che l'amnistia e l'indulto fossero un mezzo per far uscire le persone dalla carcere quando le carceri erano troppo piene. Adesso siamo punto da capo, insomma, una barzelletta che è inaccettabile, onestamente. Emiliano, la interrompo un attimo perché voglio tornare sul punto politico, fuori di amnistia, però subito dopo la viabilità. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti. Ultime ore per definire la legge di stabilità, si ipotizza l'allentamento del patto per i comuni virtuosi, un piano triennale per le tasse sul lavoro. È stato appena assegnato il premio Nobel per l'economia, va a Eugene Fama, Lars Peter Hansen e Robert Schiller per la loro analisi empirica dei prezzi degli asset. L'amnistia non può escludere un solo cittadino, dice Quagliariello a Radio 24 su Berlusconi. Ancora scontro nel PD sulle parole di Renzi contro i provvedimenti di clemenza. È pronta la missione militare umanitaria per il pattugliamento del Mediterraneo. Per l'immigrazione, naturalmente, navi, aerei, elicotteri e 1500 uomini. Funerali di Priebke, il vicariato di Roma, tutti i preti rispettino l'ordine di non celebrarli. L'avvocato è il criminale nazista, la chiesa è vile, lo ospiteremo tra poco. E torniamo però adesso a Michele Emiliano, sindaco di Bari, per il punto un po' più politico. Allora, innanzitutto, come valuta gli attacchi che sono arrivati dai ministri? Mi riferisco in particolare a Zanonato, a Matteo Renzi. Ma li valuto con disappunto, che un ministro come Zanonato, che ha dei problemi giganteschi, perché dovrebbe essere quello che traccia il futuro economico dell'Italia e ci aiuta a capire come uscire dalla tragedia che stiamo vivendo grazie a 20 anni perduti nel governo del paese, che si metta a far polemizzare perché un candidato ad un congresso dice quello che il 90% degli italiani pensano, e cioè che l'amnistia e l'indulto sono un'ingiustizia perché chi sbaglia deve pagare, e che per il PD varare una norma del genere potrebbe essere un autogol, è la dimostrazione della faziosità di Zanonato e anche del fatto che Zanonato da ministro sta pensando al congresso, una cosa vergognosa. L'ultima domanda che le voglio fare, adesso vediamo se magari ci sarà una coda a questa domanda, l'impressione è anche, e alcuni danno questa lettura, che Matteo Renzi, con questa uscita e con le successive precisazioni, abbia voluto segnalare un problema che forse nella pancia del partito in qualche misura viene sentito, ossia il fatto di essere, aperte virgolette, un partito ostaggio di Napolitano, nel senso che è lui che detta la linea politica. Lei percepisce questo problema? Cioè il partito è ostaggio del Presidente della Repubblica? Mi sembra che questo termine sia sbagliato. Il Presidente della Repubblica ha preso atto del fallimento di direzione politica, in particolare del Partito Democratico. Credo che il Presidente della Repubblica sia furibondo col PD perché ha considerato tutta la sua classe dirigente che ci ha portato a questa situazione di difficoltà come inadatta, diciamo, al governo del paese, e quindi ha dovuto fare quello che un Presidente della Repubblica, sia pure arrivando al limite delle sue competenze, è tenuto a fare in situazioni simili. Ha cercato di tenere insieme il quadro dal punto di vista economico, civile, dell'ordine pubblico, dopodiché adesso sta al PD, il congresso del PD non serve a disubbidire a Napolitano, serve a restituire a Napolitano al suo ruolo, diciamo, più conforme alla prassi costituzionale, quindi al suo ruolo di arbitro, e serve a sollevarlo dalla necessità di tenere in piedi un governo che da solo non sta in piedi, insomma, questo è il punto. Quindi non è vero che il congresso del PD e Renzi vogliono andare subito alle elezioni. Se il governo improvvisamente, per un miracolo, dovesse mettersi a funzionare e ad avere un'idea comune sulle cose da fare e si mettessero al lavoro, come io penso tutti noi auspichiamo, nessuno, certo, non è bellissimo stare al governo col PDL, però lo sopporteremmo. Ma se oltre a sopportare, diciamo, la questione della relazione ravvicinata con Berlusconi. Noi dobbiamo anche sopportare il fatto che il governo non concluda nulla, è evidente che questa cosa è insopportabile per il PD. Beh, e quindi secondo lei, ultima vera, che è la coda della domanda, dell'ultima domanda, Napolitano non ha avuto un ruolo troppo forte in questi mesi, in questi anni, secondo lei un impatto troppo forte nella vita allora, del partito? Adesso le rispondo. Secondo, io sono un magistrato, sia pure in aspettativa. L'ultima cosa che posso fare è criticare il Presidente della Repubblica. Rimane il fatto che il Presidente della Repubblica ha il diritto dovere di rivedere le proprie azioni quando lo ritiene opportuno. È evidente che la Costituzione non è uno scafandro, è uno strumento che consente, si adatta alle situazioni diverse. Sono certo, perché conosco la sensibilità costituzionale del Presidente, che quando il Presidente avrà un governo che ha vinto le elezioni e che potrà dare la risposta vera alla crisi del paese, ai drammi degli italiani, si ritirerà nel suo ruolo naturale. Quando invece è costretto a dare l'incarico a due partiti che hanno perso 10 milioni di voti in due rispetto alle precedenti elezioni, è costretto a fare supplenza, ma non credo che lo faccia con piacere. Grazie Michele Emiliano, sindaco di Bari del Partito Democratico, per essere stato con noi. Buona giornata. Io saluto adesso Alberto Orioli, vice direttore del Sole 24 Ore. Buongiorno Alberto, benvenuto. Buongiorno, buongiorno a voi. Allora, vi abbiamo sollecitato sulla nostra pagina Facebook, www.facebook.com/effettogiorno. Ho scritto all'inizio del post su Facebook: imbestialitevi e sfogatevi pure, perché il Sole 24 Ore di oggi pubblica è la sua apertura con un commento di Alberto Orioli i dati sulle società, sulle aziende di proprietà pubblica dello Stato e degli enti locali. 7.800 enti o poco meno sono cresciuti dell'8% rispetto all'anno precedente, e attenzione perché su questo poi alla fine si concentra tutto. Al di là dei 300.000 dipendenti, 19.000 consiglieri di amministrazione. Alberto, siete andati a mettere le mani su quella che è una cosa che dovrebbe essere al centro anche di questa famosa spending review che non arriva mai? Beh, sicuramente l'abbiamo chiamata la multinazionale della partitocrazia, perché 19.000 amministratori, presidenti, consiglieri di amministrazioni, amministratori delegati o direttori generali, quant'altro, insomma, quale sia la forma giuridica, di 7.800 enti, istituti, società partecipate dagli enti locali, sostanzialmente sono un vero e proprio ceto politico, sono forse una parte del problema, nel senso che è chiaro che tenderanno naturalmente a conservare il tipo di business, o meglio di non business, che dà loro lo stipendio. E quindi questa è una cosa che oramai ha raggiunto livelli scandalosi, diciamo la verità. I costi complessivi per questo tipo di attività ammontano a 15 miliardi, grosso modo. Quindi bisogna naturalmente scremare, perché ci sono aziende che sono vere e proprie aziende, lavorano anche sul mercato, e sono sane, fanno utili, consentono di avere dei dividendi ai comuni, anche se, mi riferisco a molte municipalizzate, la partecipazione dei comuni è ancora troppo alta, effettivamente potrebbero anche cedere quote per fare cassa e trovare risorse obiettivamente, però altre sono invece consorzi, sono enti che molto spesso finiscono nella lista degli enti inutili o quelli da sopprimere, e poi alla fine non si sa perché e per come non vengono mai soppressi e risultano alla fine utili, perlomeno utili a trovare lo stipendio a chi li amministra. I famosi 19.000 consiglieri di amministrazione che ci dicono, naturalmente ci scrive qualche ascoltatore, mediamente, poi magari c'è anche qualcuno che funziona, sono politici trombati e scusate la brutalità. Alberto Orioli, grazie e consiglio agli ascoltatori di andarsi a dare un'occhiata, di comprarsi il Sole 24 Ore di oggi, perché questo secondo me è uno dei temi centrali. Paolo Giacchini, buongiorno. Buongiorno. Avvocato legale di Erich Priebke, benvenuto. Grazie. Allora, il vicariato, notizia di poco fa, il vicariato di Roma è intervenuto nuovamente sulla richiesta di funerale di Priebke, dicendo che nel rispetto della normativa canonica tutti i ministri cattolici nella diocesi di Roma si atterranno alle disposizioni, che vuol dire non celebrate i funerali di Priebke. Come risponde? No, non guardi, ha mal interpretato le disposizioni della diocesi, mi dispiace. Allora forse sono state le agenzie, quindi sì, si celebrerà... Anzi, ha chiarito quello che noi abbiamo sempre detto, la diocesi, che si devono attenere alle disposizioni che le quali dicono che il signor Priebke, avendo diritto a un funerale, questo funerale non deve essere celebrato secondo uno stile di pompa magna. Deve essere un funerale privato. Benissimo. Allora, ci sarà questo funerale privato di Priebke? Ci sono? Certamente, sì, ci sarà. Sarà a Roma? Ma guardi, il discorso è questo: noi abbiamo, entro oggi abbiamo avuto finalmente assicurazione che i documenti che aspettavamo, cioè il certificato con le cause della morte, ci saranno consegnate. Questo ci darà la possibilità di traslare la salma. Ecco, detto questo, il problema è risolto, perché il problema del funerale, come noi abbiamo sempre detto, non c'è mai stato. Noi abbiamo una serie di possibilità di tutti i tipi, dentro Roma, fuori Roma, da altre parti, chiese cattoliche, chiese non cattoliche, confraternite, ci hanno offerto in varie occasioni e in varie modalità la possibilità di celebrare il rito funebre del signor Priebke, che attiene ai diritti religiosi, i diritti della liturgia che hanno tutti i cittadini italiani. Quante offerte più o meno vi sono arrivate, avvocato? Ma diverse, adesso non l'ho contate, ma insomma un po' dappertutto, da tutte le parti. Quindi questo diritto che il signor Priebke ha sarà, noi però ci siamo impegnati, questo diritto, a farlo valere in modo che non offenda, non dia fastidio ai sentimenti degli altri, anche perché a noi interessa molto poco fare degli show politici, come sembra che invece vada molto di moda in questo caso. A noi interessa solo il sentimento religioso che il signor Priebke aveva, ci ha dato mandato di portarlo fino in fondo, e il sentimento religioso che i parenti e le persone che gli sono state vicini vogliono esprimere interiormente. I fatti esteriori ci interessano poco. Lei ha detto la Chiesa è vile? Di fronte a alcune esternazioni della Chiesa, con le quali la Chiesa, che sa benissimo che il signor Priebke è battezzato perché lo accoglieva la domenica, abbiamo dato anche le fotografie, sapeva che il signor Priebke era un credente, era stato confessato ed era stato assolto, addirittura il viceparroco Don Paolo ha ammesso che è stato in casa del signor Priebke e ha pregato assieme a lui quando ha benedetto la casa, si è permessa di dire il signor Priebke era un peccatore e il suo funerale offenderebbe, secondo il codice canonico, gli altri fedeli. Assolutamente non è vero, gli altri fedeli sono stati offesi da esternazioni del genere della Chiesa, restano offese e la Chiesa se ne è accorta, avrebbe aperto una ferita immensa, avrebbe fatto un atto che non accadeva da migliaia di anni. L'epoca delle catacombe è finita. La libertà religiosa deve essere un qualcosa di cui ognuno può usufruire liberamente. Altra questione, avvocato, il luogo di sepoltura di Erich Priebke, perché anche su questo si è infiammata una polemica. Guardi, le dico subito, risolto il problema, il non problema del funerale, risolveremo il non problema del luogo di sepoltura. Il signor Priebke sarà sepolto come ha diritto, nella terra, come la liturgia cristiana vuole, come la sua volontà era e come è la volontà dei suoi cari e dei suoi intimi. Come lo faremo? Abbiamo anche lì una rosa piuttosto grande di soluzioni e ci impegniamo, vogliamo scegliere quella che meno dia adito a chi si pone come nemico di Priebke di fare degli show politici o di fare demagogia. Ci dicano la cosa che a loro dà meno fastidio, così sappiamo dove andare, e noi sceglieremo quella che tra queste cose che non dà fastidio sia la più onorevole, dignitosa e che rispetti i nostri sentimenti nei confronti del signor Priebke. Che il problema non esista, troveremo sicuramente una soluzione che vada bene. L'ipotesi di Pomezia, dove si diceva, perché là giacciono anche altri soldati tedeschi caduti sotto la guerra. Ne ho parlato di Pomezia, perché Pomezia era una delle cose delle quali avevamo anche trattato col signor Priebke, che dico sempre che mi sembra più evidente sia Roma, perché lo dice la legge e perché è più facile, ma se Roma dovesse offendere qualcuno non ci sono problemi. Pomezia va bene, è una di quelle che non riteniamo dignitose per il signor Kripke. Grazie all'avvocato Paolo Giachini per essere stato con noi, buona giornata. Noi ci fermiamo con un po' di ritardo, ci ritroviamo tra un po', prima in mezzo c'è naturalmente, ci sono le informazioni di borsa e poi ci ritroviamo con le notizie, poi sentiremo l'inchiesta del lunedì di Daniele Biacchessi. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti. Nobel per l'economia va a Eugene Fama, Robert Shiller e Peter Hansen per l'analisi dei prezzi empirica, dei prezzi di azioni e bond e la valutazione del rischio. Sono le ultime ore per definire la legge di stabilità, si sta ipotizzando l'allentamento del patto per i comuni virtuosi per 2 miliardi e un piano triennale per le tasse sul lavoro. Sono quasi 7.800 le società controllate dallo Stato e dagli enti locali, scrive il Sole 24 Ore, che calcola 19.000 i consiglieri di amministrazione, 300.000 i dipendenti. Amnistia non può escludere un solo cittadino, dice Quagliariello a Radio 24 su Berlusconi, ancora scontro nel PD sulle parole di Renzi contro i provvedimenti di clemenza. Oggi sarà varata la missione militare per il pattugliamento del Mediterraneo, navi, aerei, elicotteri e 1.500 uomini. Funerali di Pripke, il vicariato di Roma, tutti i preti rispettino l'ordine di non celebrarli, l'avvocato del criminale nazista dice a Radio 24 la Chiesa è vile. E ora è il momento dell'inchiesta, come ogni lunedì e ogni venerdì, di Daniele Biacchessi, dedicata questa settimana ad Antonio Russo. Antonio Russo è un freelance di Radio Radicale. Le sue inchieste richiedono margini di rischio maggiori di quelli accettati da gran parte dei suoi colleghi. Ma lui non vuole costruirsi etichette, non si iscrive all'albo dei giornalisti perché intende sentirsi libero da ogni condizionamento e sceglie di stare dalla parte dei più deboli, come quella volta che da Pristina si confonde tra i kosovari in fuga della repressione delle milizie di Milosevic e scompare per alcuni giorni, poi ricompare a Skopje in Macedonia. Ho usato questa mimetizzazione forse perché anche le mie condizioni erano quelle dei kosovari e quindi mi ha facilitato, come sai, gli attori di teatro non riescono a prendere il vestito della parte che devono interpretare. Nel 2000 Antonio Russo si trova in Georgia, a pochi chilometri in Cecenia è in corso la guerra che contrappone la Russia ai guerriglieri secessionisti islamici, che chiedono da tempo autonomia e indipendenza dal governo centrale di Mosca. Migliaia di morti tra civili, soldati russi e ribelli. Mosca è isolata sul piano politico. In Occidente arrivano le prime notizie sui massacri di civili e sulle attività repressive organizzate dai russi. In silenzio Antonio Russo raccoglie indizi. Radio Radicale racconta l'uso di armi non convenzionali nel conflitto russo-ceceno. I russi hanno bombardato l'area regione di Cheberloi, dove hanno bombardato un villaggio in questa area. È il 15 ottobre 2000, 13 anni fa. Antonio Russo viene prelevato dalla sua casa di Tbilisi. Imbavagliato, incappucciato con una coperta e legato, portato chissà dove, con ogni probabilità torturato, minacciato con le armi, reso all'impotenza. Il giorno dopo, il 16 ottobre, il corpo senza vita di Antonio Russo viene ritrovato sul ciglio di una strada lunga meno di 45 chilometri che dalla capitale Tbilisi porta al confine con l'Armenia. A pochi chilometri c'è la base aerea russa di Basiani e in ogni base, compresa quella di Basiani, sono presenti unità militari dell'FSB, il Servizio Federale per la Sicurezza, gli eredi del famigerato KGB sovietico. Antonio Russo aveva trovato indizi che stavano diventando prove sui massacri contro i civili in Cecenia, prove mostrate ai russi anni dopo da Anna Politkovskaya, cronista del quotidiano Novaya Gazeta, uccisa a Mosca il 7 ottobre del 2006 dopo essere stata arrestata, torturata, picchiata e minacciata più volte dai funzionari dei servizi segreti. Sono crimini organizzati per conto degli apparati politici del Cremlino. Per questo ad oggi e per la morte di Antonio Russo non vi è alcuna giustizia e nessun governo italiano l'ha mai chiesta fino in fondo, forse, aggiungiamo noi, per non disturbare il gran manovratore.